Se un alunno che va a scuola viene interrogato e l'insegnante gli fa una domanda e vedendolo un po' in difficoltà, l'insegnante stessa suggerisce la risposta, sarebbe ben fortunato questo allievo. E il Signore fa così normalmente nella sua parola, ha fatto così anche in questo salmo responsoriale. Salmo 14, 15. Signore, chi abiterà nella tua tenda? Chi dimorerà sulla tua santa montagna? Bella domanda. Chi è degno di abitare nel tempio del Signore? La tenda era il tempio primitivo, quando il popolo era ancora nomade nel deserto. E il Signore ti risponde. Solo che tante volte noi i salmi li recitiamo così, no? Come sarebbe importante avere il testo tra le mani e come sarebbe importante se noi imparassimo nei nostri momenti personali di preghiera davanti al tabernacolo. Una volta si usava fare la visita al Santissimo Sacramento. Si può fare ancora, sapete? E per non andar lì e non saper che cosa dire, basterebbe avere familiarità con i salmi. Chi abiterà nella tua tenda? Primo, colui che cammina senza colpe, che pratica la giustizia, cioè una persona veramente giusta e dice la verità che ha nel cuore, non ha la lingua biforcuta, una cosa la pensa, l'altra la dice, la sincerità. E per sottolineare quello che dice molto bene la lettera di San Giacomo, l'importanza della lingua. Com'è bello, amici, conoscere la Sacra Scrittura e ogni tanto rileggerla. Ci sono certi libri, certi film, che tu li hai già visti, ma li rivedresti ancora. La lettera di Giacomo è una di queste. Quando ti parla della lingua, che ti dice, la lingua è un organo piccolissimo, ma governa tutto il corpo, è come il timone della nave. Tu guarda la nave com'è grande, ma dove va? Dove la manda il timone? Che bella! Chi abiterà nella casa del Signore? Chi dice la verità che ha nel cuore? Chi non sparge calunnie con la sua lingua e non fa danno al suo prossimo e non lancia insulti al suo vicino? Il malvagio non lo considera, è spregevole ai suoi occhi. Ma onora chi teme il Signore. E poi c'è una frase che io mi ero messo in cuore di spiegarvela, ma ci vorrebbe un quarto d'ora. Lo faremo magari in una catechesi. Non presta il suo denaro a usura. Penso che nessuno di noi lo presta a usura. Forse lo prestiamo, forse. Ma anche lì bisognerebbe fare un grande ragionamento. Vi do appuntamento un'altra volta. E non accetta doni per condannare un innocente. Punto, a capo. Colui che agisce in questo modo resterà saldo per sempre. Ecco la risposta alla domanda: chi abiterà nella tua tenda, Signore? Amici, spero che anche oggi vi abbia dato un piccolo suggerimento a imparare a prendere familiarità con i salmi. Non è un caso che i salmi sono la preghiera del pio ebreo, ma sono la preghiera dei monaci, dei sacerdoti, delle persone consacrate, e sempre più sta diventando la preghiera del buon cristiano.